said from the first, I'm the worst kind of guy for you to be around. Tear me apart, baby, including this heart that is true, and never ever let you down. Stick with me. Trust me too much. Use me. Ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to present the fantastic, fabulous Rolling Stones. Now there, Billy Wyman, alright, Keith Richards, Mark Jones, Charlie Watts, and Mick Jagger. Per ambra, ognuno ha la sua roba preziosa preferita. Perché ci fermammo a pranzo nel fine settimana del giorno dell'indipendenza al ristorante Fordyce di Fordyce in Arkansas? Come se non avessi imparato nulla dopo 10 anni passati a scorrazzare in auto da un capo all'altro degli States, in cima alla lista nera della polizia. sesso illecito e sommosse in tutto il paese. La colpa era nostra, poveri menestrelli. Avevamo incitato i giovani a ribellarsi, avevamo corrotto l'America. Tutti gli sbirri volevano arrestarci e ripulire gli Stati Uniti d'America dai frocetti inglesi. Bill Carter, il nostro grande avvocato, ci aveva consigliato di girare alla larga dall'Arkansas e di non deviare mai dall'interstatale. Bill ci aveva informato che l'Arkansas aveva tentato di bandire il rock and roll per legge. Mi sarebbe piaciuto leggere l'articolo. Una multa ogni 4 battute ripetute ad alto volume. E invece eccoci là a Zonzo per le strade secondarie a bordo di una Chevrolet gialla nuova di zecca. In tutti gli States non c'era forse luogo più assurdo dove sostare con un'auto simile, stracolma di droga. Una comunità rurale, chiusa e conservatrice, poco incline ad accogliere forestieri dall'aspetto insolito. Jim Dickinson, il ragazzo del sud che aveva suonato il piano i White Horses, ci aveva assicurato che il paesaggio offerto da Texas e Arkansas valeva il viaggio in automobile. E poi non ne potevamo più degli aerei. Il volo da Washington a Memphis era stato spaventoso. Improvvisi vuoti d'aria di parecchie centinaia di metri. Gente che strillava e singhiozzava. La fotografa Annie Leibovitz aveva sbattuto la testa contro il soffitto e dopo l'atterraggio i passeggeri avevano baciato l'asfalto della pista. Un volo pazzesco. Così eravamo andati in auto e io e Ronnie avevamo fatto i cretini. Dopo aver ordinato eravamo andati in bagno, ci eravamo sballati, la clientela del posto non ci andava a genio e neppure il cibo, così eravamo rimasti in bagno a sghignazzare e a fare gli scemi per 40 minuti, cose che non si fanno, non da quelle parti, non allora. Fu così che la situazione precipitò e il personale chiamò la polizia. Quando uscimmo, un'automobile nera senza numero di targa era posteggiata sul ciglio della strada e non appena ci rimettemmo in marcia, percorsi sì e no, 20 metri, partirono le sirene e quella lucina lampeggiante. E gli sbirri ci puntarono i fucili in faccia. Quando succede, succede in fretta. Era estate e io ero seduto nel giardino davanti al mio appartamento qua a San Lorenzo e aspettavo. In estate Roma puzza di merda e piscio inacidito. Le strade sono aride, vuote. Sembra che tutti siano scappati al mare o in campagna, lasciando gli scoppiati e senza tetto a pagare tra gli edifici. In quel momento di desertica desolazione, all'improvviso capii, ebbi come un'illuminazione. Avevo sempre immaginato che da qualche parte nel mondo qualcuno se la spassasse più di me, che ci fosse una festa più bella di quelle cui partecipavo io. Beh, esisteva davvero. Fui rapito dai Rolling Stones. Avevo finito di ascoltare il primo CD della ristampa dell'intera discografia pubblicata in America, England's Newest Hitmakers, produttori di successi britannici più o meno, The Rolling Stones. E stavo leggendo il primo capitolo dell'autobiografia di Keith Richards, Life. Prima mi annoiavo, dopo non più. Prima mi annoiavo, dopo non più. Prima mi annoiavo, dopo non più. Ci dissero di seguirli fino a un parcheggio sotterraneo nei pressi del municipio. Avevano visto il coltello da caccia sul sedile dell'auto. Ma la roba era ovunque. Bastava far saltare i pannelli di rivestimento degli sportelli ed ecco sacchetti di plastica, zeppi di cocaina, peyote, mescalina. Giunti al garage, però, non ispezionarono subito l'auto. Evidentemente ormai sapevano chi gli era capitato per le mani. E sembravano incerti sul da farsi con quelle star di fama internazionale in stato d'arresto. E così, anziché sbatterci al fresco, adottarono la misura del carcere preventivo, trattenendoci nell'ufficio del capo dipartimento. E noi potemmo gironzolare un po'. Io e Freddy Sessler andammo al cesso. Freddy era un personaggio incredibile. Aveva dovuto badare a se stesso e sfuggire ai tedeschi che avevano portato il resto della sua famiglia in un campo di concentramento. Aveva 15 anni quando vide suo zio e suo nonno torturati e poi uccisi a pistolettate da due nazisti alla luce del giorno. Venne inviato in un campo di lavoro in Polonia. Evase verso il settore occupato dalle truppe russe. Fu spedito in un gulag in Siberia. A guerra finita raggiunse il fratello a Londra. Il fratello a Londra era proprietario di un locale che divenne ritrovo per generali e celebrità di Hollywood. E Freddy divenne amico personale di Bing Crosby, Ronald Reagan e Frank Sinatra. Quando lo conobbi, possedeva un centro di Air Extension a New York. All'epoca, chiunque poteva raggiungere la mia stanza. Ma non so esattamente come fosse arrivato fin lì. Ho una cosa che ti piacerà. E quindi estrasse 30 grammi abbondanti di Merck pura, il massimo. Fino ad allora la cocaina mi piaceva ogni tanto, ma a parte quella che si prendeva dai tossici in Inghilterra, il resto era merda di strada. Non si sapeva mai se era anfetamina. Le sue droghe preferite erano eroina e Qualud. Aveva accesso alle migliori qualità di entrambe. Era un pirata, un avventuriero, uno fuori dal gruppo. Legammo subito. Ma quando è? Quando è che Donald provò l'eroina per la prima volta? Non riesco a ricordarlo. E comunque non potrei più saperlo, visto che se n'è andato durante l'adolescenza, più o meno durante il nostro 16° anno di vita. Fin da bambini percorrevamo in lungo e in largo le strade del nostro quartiere, allestendo mercatini occasionali di fumetti rubati ai nostri genitori e oggettistica varia, anch'essa razziata nelle nostre case di piccolo borghesi che si apprestavano a godere del secondo boom, quello degli edonistici anni Ottanta. Fino a che gli anni 90 e ancora più gli anni 0 non si sono rimangiati tutto, riportando l'asticella a zero, appunto. L'eroina per lui non fu una passione estetica, un'esperienza necessaria ad emulare i maestri, i bluesmen neri, come nel caso di Richards, che avevano inseguito lo sballo fino a perdere tutto. Kit doveva fare musica con la loro stessa intensità, doveva toccare il fondo dell'oceano, dove le perle giacciono sepolte nella fanghiglia. Donald no. L'eroina fu una reazione alla disastrata situazione familiare, uno stordimento necessario. Delirio liquido, sollievo chimico, ne vuoi ancora? La roba si abbinò perfettamente a quella situazione deprimente, portandolo in breve tempo all'annichilimento e poi alla morte. La tua anima riposi in pace, donna. Che ti piacerà? Gesù Cristo! Gesù Cristo! È l'espressione che precedeva ogni frase di Freddy. Gesù Cristo, sono carico. Appena entrammo nel cesso, tirò fuori dalle tasche dei flaconi pieni di tuina. Ma era talmente agitato mentre tentava di vuotarli nel water che uno gli sfuggì di mano e quelle cazzo di pasticche rosse e turchese si sparpagliarono ovunque mentre lui si arrabattava per tirare l'acqua e lavare via la coca. Ma era come se la coca piovesse dal cielo. Era incredibile. ce n'era ovunque guardassi. Non avrei mai immaginato di avere tutta quella polvere in vita mia. Non allora. Io intanto avevo buttato via l'hashish e la marijuana e tirato lo sciacquone, ma quella merda non andava giù. C'era troppa erba. E all'improvviso vidi le pastiglie rotolare sotto la parete divisoria. Così mi chinai a raccoglierle e le scagliai nella tazza del water, ma con qualche difficoltà, perché c'era un altro cesso tra il mio e quello di Freddy, con questa cinquantina di pastiglie disseminate sul pavimento. Gesù Cristo! Chi? Nervi santi. Freddy, io ho preso tutte le pastiglie da qui. Tu hai preso le tue? Credo di sì. Credo di sì. Ok, ok. Adesso, sai che facciamo? Adesso entriamo nello scomparto di mezzo e pensiamo a quello. Ma il vero problema era la borsa di Freddy, nel bagagliaio dell'auto, ancora chiusa e piena di cocaina. Era impossibile che non la trovassero. Ma dov'era Carter? E cosa ci aveva detto? Non infrangere la legge. Non farti fermare dalla polizia. Non infrangere la legge. Non farti fermare dalla polizia. Restate sull'interstatale. I said the joint was rocking, going round and round. Macinavamo molti chilometri in auto in quei primi tour. Stati e cittadine si susseguivano a ciclo continuo. La febbre della striscia bianca la chiamavamo. Ma non è esattamente come state pensando. Quando eri sveglio, fissavi le strisce bianche in mezzo alla carreggiata. E di tanto in tanto qualcuno diceva: devo cacare, ho fame. Allora potevi ritrovarti in una buffa scenetta lungo la strada. Strade minori della Carolina, del Mississippi, posti così. Scendevi con un gran bisogno di pisciare. Adocchiavi la scritta signori. E vedevi un nero che se ne stava lì accanto e ti diceva: solo uomini di colore. E allora pensavi: mi stanno discriminando. Yeah, 12 o'clock. Yeah, the place is packed. Alle volte passavi accanto a bettole con il jukebox da cui usciva una musica incredibile. And when the police knock. Allora entravi e per un attimo calava il gelo. Perché non avevano mai visto dei bianchi mettere piede nel locale. Però sapevano che l'energia era troppo intensa perché dei tipetti bianchi potessero fare la differenza. Così loro si incuriosivano e noi ci davamo dentro. Ti accoglievano. Ti davano da mangiare. Ti sistemavano per la notte. Se sapete cosa voglio dire, insomma. I quartieri bianchi della città erano morti, ma al di là dei binari echeggiava il rock and roll. Un'educazione incredibile. Eravamo al settimo cielo, perché fino a qualche mese prima bazzicavamo i pub di Londra, mentre nel giro di un anno eravamo arrivati là dove non avremmo mai sperato di arrivare. Eri in mezzo ai grandi, e accanto a te c'era Muddy Waters. Avveniva tutto così rapidamente che non riuscivi a registrare le impressioni che ti assalivano. Una cosa è suonare un pezzo di Muddy Waters, un'altra e suonarlo con lui. Muddy Waters. Muddy, come on. I want to thank you, ladies and gentlemen. This is a brand new one we made you call. I got my brand on you. Mm-hmm. Una volta un vecchio vide Mick Jagger da vicino ed esclamò: hai più rughe di me. È perché ho riso troppo, rispose Mick. E cosa poteva mai esserci di tanto divertente? Beh, insomma, a parte la stereotipata interpretazione del vecchietto, c'era stato qualcosa di tanto divertente. Lo scherzo che quella generazione di rockstar aveva giocato a un destino che voleva inquadrarli in un'esistenza di quieta disperazione in qualche fabbrica o in qualche ufficio, e invece se li era ritrovati vestiti come principi medievali. Ognuno di loro emanava energia e gloria da dannati e conduceva una vita che per secoli era stata appannaggio esclusivo dei nobili. Una vita che per secoli era stata appannaggio esclusivo della nobiltà. Erano gli ultimi esemplari delle grandi rock star, una specie che sta seguendo la sorte del leopardo delle nevi. Individui preziosi, strani, vestigia di un'antica religione, di un'epoca in cui la musica contava più di ogni altra cosa, quando eri sicuro che il nuovo album avrebbe chiarito tutto. Ebbi una seconda rivelazione. Il tempo, sì, il tempo mi avrebbe sempre separato da loro. Mi ero perso tutto. 1964, 1969, 1972. Erano stati quelli gli anni fondamentali. Ero nato troppo tardi. Quello che doveva accadere era accaduto. Sì, è così. Avevo passato la vita a cercare quella festa e quando infine l'avevo trovata, tutti erano troppo vecchi. Dovevate esserci il 3 ottobre a Copenaghen. C'erano Mick, c'era Kit, Ronnie, Charlie, i Rolling Stones. Ma è come fare una festa con tuo nonno. Ti diverti? Una festa con tuo nonno. Insomma, poi è questo che caratterizza la mia generazione, schiacciata tra i figli del boom che si sono goduti tutte le risorse, ogni tipo di divertimento, e la generazione del nuovo millennio che ha rifatto il mondo trasformandolo in un posto virtuale e freddo. I baby boomer hanno consumato la loro infanzia e poi hanno consumato pure la nostra. Hanno esagerato, hanno raggiunto eccessi tali che a noi non resta altro se non raccontare la loro storia. Hanno esagerato. Sì, hanno esagerato, hanno raggiunto eccessi tali che a noi non resta se non raccontare la loro storia. Eh già, non vi resta che raccontare e terminare questa storia. Dove ero rimasto? Ah, sì, cercavamo Bill Carter. Beh, alla fine Bill fu rintracciato a Little Rock, dove stava facendo una grigliata a casa di un amico, il quale si rivelò essere un giudice. Una coincidenza molto fortunata. Bill si era fatto le ossa nelle campagne politiche locali fin dai tempi del college, perciò conosceva quasi tutti i notabili dello Stato, tutti gli agenti delle forze dell'ordine, gli sceriffi, i pubblici ministeri, i leader politici. La zona era praticamente il suo cortile di casa. Quando Carter giunse a Fordyce con il giudice a braccetto, la vicenda era già montata. Una nutrita schiera di giornalisti si era stabilita in paese. Un'emittente televisiva di Dallas aveva noleggiato un jet per assicurarsi un posto in prima fila. Erano stati allestiti dei posti di blocco per impedire l'afflusso di altre persone. Gente dal Mississippi, dal Texas, dal Tennessee, tutti accorrevano per godersi lo spettacolo. Gli agenti di polizia volevano aprire il bagagliaio, dove erano certi di trovare la droga. Così, per prima cosa, mi accusarono di guida spericolata, poiché uscendo dal parcheggio del ristorante avevo sollevato un po' di ghiaia facendo stridere le gomme. 20 metri di guida spericolata. Secondo capo d'accusa. Ero in possesso di un'arma nascosta. Il coltello da caccia. Ricordate quello che avevano trovato sul sedile dell'auto? Per aprire il bagagliaio legalmente, tuttavia, gli agenti dovevano fornire un indizio di colpevolezza, ossia esibire una qualche prova o un qualche ragionevole dubbio che avessimo commesso un reato. Diversamente l'ispezione sarebbe stata illegale e il caso respinto. Anche nell'eventualità che fosse stato rinvenuto qualcosa. Per introdurre un indizio di colpevolezza, il poliziotto che mi aveva fatto accostare dichiarò di aver sentito l'odore della marijuana fuoriuscire dal finestrino dell'auto mentre lasciavamo il parcheggio. Di fatto, gli agenti sostenevano che nel minuto intercorso tra il momento in cui eravamo usciti dal ristorante e quello in cui ci eravamo diretti fuori dal parcheggio, avevamo trovato il tempo di accenderci una canna e riempire l'abitacolo di fumo al punto che qualcuno lo aveva fiutato a parecchi metri di distanza. Quella era la causa dell'arresto. Da sola, un'affermazione del genere distruggeva la credibilità delle prove in mano alla polizia. Carter discusse di tutto ciò con il capo della polizia, Bill Gober. Gober, la versione americana e bigotta dei miei amici al commissariato di Chelsea, sempre pronti ad abusare del proprio potere schivando la legge. All'epoca, in ogni parte del mondo e senz'altro nel sud degli Stati Uniti, gli sbirri disponevano di un'ampia gamma di trucchetti semilegali per sbatterti dentro. Potevano lasciarti in galera per 90 giorni. Gober era disgustato dal profondo dai Rolling Stones, dai loro vestiti, dalla musica e in particolare da quella che lui riteneva una sfida lanciata all'autorità, la disobbedienza. Perfino Elvis diceva «Sì, signore!» Perfino Elvis «Sì, signore!» Ma non quei teppistelli capelluti. Così fece di testa sua e aprì il bagagliaio. Quando attraversavi il fiume al confine col Tennessee, dove allora la vendita di alcolici era per lo più proibita, e giungevi a West Memphis, in Arkansas, incappavi in negozi di liquori che rivendevano bevande distillate in casa, con magnifiche etichette. In uno di quei negozi, Keith e Ronnie avevano dato i numeri e comprato le bottiglie di bourbon più stravaganti. Fiaschette bizzarre con nomi strani scritti a mano. Nel bagagliaio ce n'erano più di 60. Ecco, tutto quell'alcol dovette confondere la polizia. Erano gli anni 60. E gli ubriaconi non erano dei tossici a quei tempi. C'era una distinzione netta. Sono degli uomini, bevono whisky. Poi però misero le mani sulla borsa di Freddy e fecero saltare la combinazione. E, come previsto, c'erano i flaconcini di cocaina farmaceutica. Gober pensava di averli in pugno. Gober pensava di averci in pugno, ma il giudice, ormai a tarda sera e dopo una lunga giornata trascorsa a bere, era bello alticcio. E così dalla tragedia scivolammo nell'assurdo. Questo è il modo più adatto per raccontarvelo. Fuori dal tribunale, 2000 fan accalcati contro le transenne a gridare: liberate Kit! Liberate Kit! Liberate Kit! Liberate Kit! Nella sala delle udienze. Giudice. Bene, la corte è qui riunita per valutare un reato, credo. Un reato. Signori, ascolterò le vostre richieste. La parola alla pubblica accusa. Giovane pubblica accusa. Vostro onore, abbiamo un problema con le prove. Giudice. Dovete scusarmi un attimo, la seduta è sospesa. L'interruzione dura 10 minuti. Questo nella realtà, ma ora stiamo facendo un radiodramma. Quindi il giudice rientra E la missione prevedeva l'attraversamento della strada e l'acquisto di una bottiglia da mezzo litro di bourbon prima della chiusura del negozio alle 10. La bottiglia è ora nascosta in un calzino. Carter, che per l'occasione avrà la mia voce, al telefono con Frank Whitney, il fratello del giudice. Frank, dove sei? Faresti meglio a venire qui? Tom è ubriaco. Sì, ok, ok. Giudice. Prego. Sì, pubblico ministero, vada avanti. Giovane e pubblico ministero. Credo che da un punto di vista legale non ci siano i presupposti per procedere, vostro onore. Non abbiamo elementi per trattenere gli imputati. Penso che debbano essere rilasciati. Col cazzo, capo della polizia, col cazzo. Non vorrà rimettere questi bastardi in libertà. La farò arrestare, giudice, e lei lo sa. Glielo assicuro, lei è sbronzo, stato di ubriachezza in luogo pubblico, non può sedere su quello scranno, è un disonore per la nostra comunità. Tu, giudice, figlio di puttana, se osi minacciarmi ti faccio cacciare fuori a... Segue un parapiglia. Su, signori, signori, Carter che si avvicina per separarli, smettiamo di bisticciare, discutiamo piuttosto. Non è il momento di scaldarsi e affondare i coltelli, è su. C'è la televisione là fuori. Giornalisti da tutto il mondo. Non ci faremo una bella figura. Sapete quello che poi dirà il governatore al riguardo. Atteniamoci al caso. Penso che ci siano i margini per raggiungere un accordo. Ufficiale giudiziario. Mi scusi, vostro onore, c'è la BBC in collegamento da Londra per una diretta. Desiderano parlare con lei, giudice. D'accordo, scusatemi, gente, torno subito. Beve un sorsetto dalla bottiglia infilata nel calzino ed esce. Questa è una pagliacciata. Vai al diavolo, Carter. Quei farabutti hanno commesso un reato. Abbiamo trovato la cocaina nella loro auto del cazzo. Che cos'altro vuoi? Gli farò sputare sangue. Dovranno sottostare le nostre regole finché sono qui. Non gliela farò passare liscia. Quanto ti pagano, amichetto? Voce fuori campo del giudice. Sono stato di stanza in Inghilterra durante la seconda guerra mondiale. Pilota. 385esimo stormo bombardier. Mi sono divertito un sacco laggiù. Ah, adoro l'Inghilterra. Ho giocato a golf. Mi è capitato di giocare su alcuni campi davvero fantastici. Ne avete di meravigliosi laggiù? Sì, certo. Ora, a titolo informativo, più tardi terremo una conferenza stampa con i ragazzi nella quale chiariremo la natura dei procedimenti giudiziari a loro carico, come i Rolling Stones sono arrivati nella nostra cittadina e tutto il resto. Sono stato io a trascinarli qui e non intendo lasciarli andare. Voglio quegli inglesi, quelle checche, chi cazzo si credono di essere? Oh, vuoi provocare una rivolta? Hai visto là fuori? Sventola un paio di manette e perderai il controllo della folla. Stiamo parlando dei Rolling Stones, per la miseria. E allora i tuoi bambocci finiranno al fresco. Che c'è? Tom, dobbiamo parlare. È Frank Whitney a parlare, il fratello del giudice che lo ha preso in disparte. Mi ascolti, Tom? Non ci sono gli estremi per tenerli in fermo. Se non ci atteniamo alle regole, questa volta la paghiamo tutti cara. Lo so, certo, sì, sì. Avvocato Carter, si avvicini al banco. Dopo un lungo conciliabolo e una serie di bisbigli nelle orecchie, Carter e i magistrati strinsero un patto con il giudice. Molto semplice. Il giudice avrebbe tenuto per sé il coltello da caccia, lasciando cadere l'imputazione, che ancora oggi aleggia nell'aula di giustizia. Avrebbe derubricato la guida spericolata a un reato minore. Niente più di una multa per divieto di sosta. Ad un'ultima condizione, però. Prima di andarcene, avremmo dovuto partecipare alla conferenza stampa e farci fotografare con le braccia attorno alle spalle del giudice. A quel punto avevo ormai indosso un elmo da pompiere e fui ripreso dalle telecamere mentre battevo il martelletto. Il caso è chiuso. Era un classico che finisse così per gli Stones. Ogni volta le autorità che ci arrestavano aspettava una scelta delicata. Volevi chiuderli dentro oppure scattare una foto con loro? Le preferenze variavano. A Fort Ice, intorno alle 2 del mattino, la polizia di Stato dovette scortarci tra 2 ali di folla fino all'aeroporto, dove il nostro aereo, ben fornito di Jack Daniels, attendeva con il motore su di giri. Chi ha a che fare con gli Stones, anche se per poco, tende a ricordare l'esperienza come una delle più intense della propria vita. Nel tempo ho capito che quello che era iniziato come un semplice ascolto, una lettura sbaccata, si stava trasformando in qualcos'altro. Un'epopea, un'ossessione, una saga in cui un pugno di musicisti era l'emblema delle aspirazioni di un'intera società. Sì, ok, ok. Può anche essere che sia tutto questo. Ma che fine ha fatto l'auto? E noi l'abbiamo lasciata in quel garage, piena di droga. Mi piacerebbe sapere dove è finita la roba. Il fatto che non abbiano rivoltato l'auto come un calzino sfugge ancora oggi alla mia comprensione. Io vorrei proprio sapere dove si è cacciata tutta quella roba. Forse nessuno ha mai rimosso i pannelli. Forse qualcuno la guida ancora, imbottita di stupefacenti.